Si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno e buona Pasqua a tutti voi. Oggi infatti la domenica di Pasqua. Carlo, buongiorno anche a te, auguri. Buongiorno Laura, auguri, buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori, come hai appena detto te, e anch'io mi unisco ai tuoi auguri di Pasqua. Sarà una Pasqua sicuramente diversa e però secondo me possiamo imparare molto, forse anche un po' divertirci. La Pasqua è la rinascita, quindi ci prepariamo alla rinascita collettiva, dove quando usciremo finalmente tutti insieme o scaglionati, non si sa ancora, e intanto festeggiamo a casa, direi scaldiamo i nostri Skype. Non so tu Laura come farai, io sicuramente ho tutte delle Skype call programmate con nipoti, fratelli, sorelle, mamme, tutti incrociate, alcune di gruppo, alcune singole. Speriamo che funzioni tutto a dovere, perché credo che non sarai l'unico in questa giornata di Pasqua a collegare con mezzo mondo per sentire amici e parenti, no? Ovunque siano, anche magari semplicemente vero nel palazzo dietro, però non potendo andare, non potendo trovarsi al bar per il caffè, dobbiamo fare tutti necessariamente così. Volevo aggiungere che questa molto non solo vero. È una Pasqua particolare, ma è anche una domenica particolare nella quale non dovete digitare l'824 0024, perché anche noi oggi rispettiamo una misura di contenimento pasquale, no? Vogliamo definirla così, insomma non siamo in diretta, e quindi un avviso insomma ai naviganti: ascoltateci, scriveteci come sempre a sipuofare@radio24.it, oppure scriveteci su Facebook o come preferite, ma non telefonate in questa giornata perché non possiamo rispondere, è così, va così. Carlo, tu hai qualche consiglio magari per questa giornata, per trascorrerla oltre che su Skype o su qualunque altro mezzo di comunicazione? Sì, mi riallaccio a settimana scorsa quando ho consigliato dei podcast e degli audiolibri, confessandovi che in questa lunga quarantena mi ritrovo spesso a non aver voglia di leggere, nel senso che oscillo fra giorni in cui leggo tranquillamente 400 pagine, altri invece in cui dopo 6 righe mi viene da vomitare, la mente vaga, inizio a fare pensieri cupi, e leggere mi sembra la cosa più inutile del mondo, soprattutto se si tratta di romanzi. Ecco, poi ieri ho letto un bel pezzo di Anita Pietra che mi ha rincuorato, perché inizia così: se in questo particolare momento storico non riesci a leggere romanzi, tranquillo, non sei il solo, ma forse potresti provare con la poesia. E ci ho pensato. A me piace moltissimo leggere poesia, non sono un esperto, alla fine lo faccio molto meno di quello che vorrei, non sempre capisco, certe poesie le adoro e le ripeto per anni nella mia testa, altre invece le relego nel cassetto delle troppo difficili per me. Però concordo con Anita Pietra, la parola poetica, la parola giusta che il poeta ha distillato fino a trovare la formula più esatta, più precisa, è forse l'unica che ci appare portatrice di una verità, e forse a volte anche l'unica in grado di toglierci, anche solo per un attimo, da questa realtà impazzita e incontrollabile. La poesia, che poi è sintesi, illuminazione, squarcio, mi pare un ottimo antidoto efficace in questo periodo di quarantena. Il mio consiglio in realtà vorrei che terminasse qui: provate a leggere poesia di questi tempi, quella che vi pare, quella che vi piace, quella che trovate, quella di chi già conoscete o quella che vi ha sempre intimorito o anche quella che vi ha sempre incuriosito, perché poi consigliare poeti e poetesse nello specifico è molto difficile, è molto personale, e trovo anche molto complicato spiegare le ragioni, soprattutto per me che non sono un critico letterario. Io sto leggendo Dove non siamo stati, di Giovanna Cristina Vivinetto, che è edito Burr. Lei è del 1994, è nata a Siracusa, è già autrice di un altro splendido libro di poesie intitolato Dolore Minimo, edito da Interlinea nel 2018. Poi sbocconcello con massimo gusto Le Cavie, che è una raccolta di poesie dal 1980 al 2018 di Valerio Magrelli, è un bel tomone di 600 pagine. Lui, Valerio Magrelli, forse lo conoscete, classe 1957, stupendo, bravissimo, accogliente da leggere un po' in qualunque momento. E poi leggo anche Pierluigi Cappello, che ci ha lasciato da poco, Un prato in pendio, così si chiama la sua raccolta di tutte le poesie dal 1992 al 2017. E anche questo edito da Burr. Ecco, amo anche molto i classici, devo dire, però al momento consiglio i contemporanei e Pasqua mi sembra una bella occasione per far risorgere anche la poesia. E sai, poesia è anche quella che ci ha suggerito in queste settimane il nostro amico Preside Trezzi, no? Quindi anche quelli sono consigli di Eh poesia. certo. Se volete, poi si può sempre chiamarlo e farsela leggere direttamente da lui. Oppure, aggiungo io, volendo parlare di poesia, si potrebbe andare anche sulla pagina Facebook di Si Può Fare, dove alcuni ascoltatori hanno mandato le loro poesie e noi le abbiamo pubblicate. Quindi, se volete leggerle, beh, è un buon momento, no? Più Potete. contemporanei di così. Esattamente. Scritte la maggioranza durante questo periodo, quindi sono proprio anche adeguate, diciamo, al momento che stiamo vivendo. Oppure, se vogliamo parlare di una poesia un pochino più per bambini, io qui già vi porto sul personaggio della settimana, vero Carlo? Perché questa volta non ve lo facciamo indovinare, ve lo diciamo direttamente noi. Beh, si potrebbe stare su Questa è una questa. particolarità. È vero, una particolarità. Giustamente, come stai dicendo, Laura, è molto giusto, è una particolarità perché noi oggi non possiamo fare il concorso perché non siamo in diretta, ma ci abbiamo tenuto anche in questa settimana pasquale a identificare il personaggio della settimana e quindi ci teniamo a comunicarvelo perché è un personaggio bellissimo. Allora, un personaggio un po' poetico di cui facciamo ascoltare qualche parola. I have a bit of an idea that maybe in lieu of the bunny being able to make it to your home, you can create your own Easter hunt for all the children in your neighborhood. So if you're one of those homes that's had a teddy in your front window, maybe draw an Easter egg and pop it into your front window and help children in your neighborhood with their own Easter egg hunt, because the Easter bunny might not get everywhere this year. Allora, un po' difficile, parla non solo velocissimo, ma con un forte accento neozelandese. Lei è la premier neozelandese, si chiama Jacinta Ardern. E bene, ha messo tra i personaggi che possono lavorare in questo periodo il coniglietto di Pasqua e la fata dei dentini, perché ha detto sono un servizio essenziale. E quindi da lì poi dopo ha dato il via a una serie di iniziative dedicate specificamente ai bambini che qui, come in Nuova Zelanda, devono stare a casa, no? Ci è parso una, così, una scelta poetica e una scelta anche importante. Noi abbiamo parlato spesso, Carlo, no? Di psicologia dei bambini in questo periodo. Assolutamente sì, e in più aggiungo che guadagna assolutamente a merito la posizione di personaggio della settimana, perché al di là di questa cosa bellissima, poetica, con grande attenzione nei confronti dei bambini, va anche detto che la Nuova Zelanda si sta comportando benissimo nei confronti del coronavirus. Ho letto un pezzo su Internazionale dove proprio dal titolo Come la Nuova Zelanda ha sconfitto il nuovo coronavirus. Questo per dire che a volte, spesso o meglio nei casi migliori, queste scelte anche poetiche che possono sembrare più piccole, più marginali, che possono sembrare più nostre, più da si può fare, ma si uniscono anche a ottime pratiche. Non è che semplicemente la Premier ha parlato del coniglietto e quindi ah, che cosa buffa. In realtà se ne sta occupando veramente molto bene e la Nuova Zelanda ha pochissimi casi. E a questo punto, proprio per continuare su un approccio positivo, diciamo, rispetto a questa situazione che ha ovviamente molti risvolti drammatici, ma insomma, dobbiamo cercare di affrontare, beh, noi vi proponiamo la seguente storia, che è quella che ci racconterà Davide Giansoldati, cantastorie digitale e insegnante di yoga della risata. E lui è qui con noi, buongiorno. Buongiorno, ciao, come state? Noi stiamo bene, tu come stai? Molto bene, molto bene. E un grande saluto a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua. Allora, cosa vi posso raccontare dello yoga della risata? Perché immagino che un po' di gente sia qui in ascolto anche per saperne qualcosa di più. Esattamente. Disciplina... Siamo tutti molto curiosi, devo dire, perché esatto. Conosciamo lo yoga e conosciamo la risata, mm-hmm. ma le due insieme no. È proprio questa la forza dello yoga della risata. Nasce poco più di 25 anni fa, compiuto 25 anni il 13 marzo, per cui nel mondo dello yoga è una disciplina giovanissima, da un medico indiano che ha capito che nella semplice risata, quindi quella che facciamo tutti noi tutti i giorni, c'è il segreto dello star bene. Il problema di base è che ci vogliono 10-15 minuti almeno di fila di risate per arrivare a raggiungere questo picco di benessere. E quindi anche il miglior cantastorie, il miglior barzellettiere, le migliori scene comiche non riescono a portarci in questo stato, perché è difficilissimo far ridere le persone per 15 minuti. E allora la forza dello yoga della risata sta proprio nel fatto che è possibile semplicemente far finta di ridere, cioè ridere senza motivo. Non c'è nessun tipo di differenza per la nostra mente e per il nostro corpo. Nel momento in cui noi ci sforziamo di ridere senza motivo, la nostra mente viene ingannata, a sua volta inganna il corpo e dice: oh, guarda che c'è Davide che sta ridendo, spariamo subito una bella dose di endorfine e stiamo subito meglio. Per cui questa è la grande forza dello yoga della risata. Dunque, noi metteremo poi un video che tu ci hai mandato apposta per gli ascoltatori di Radio 24 sulla pagina Facebook, ma c'è qualcosa che possiamo magari fare anche adesso insieme, non lo so, qualche indicazione che ci puoi dare? Certo, assolutamente sì. Un esercizio pasquale da ridere. Esatto, qualche esercizio pasquale da ridere. Allora, io ho pensato proprio a queste situazioni dove inevitabilmente tutti quanti dobbiamo un po' ripensare quello che normalmente si fa come attività di gruppo. E quindi cosa si può fare? Intanto immaginiamo di dover fare questa risata finta, forzata, no? Per fortuna molti di noi magari, per fortuna per modo di dire, ma sono a casa da soli, non li vede nessuno, ma hanno lo specchio e la risata è contagiosa, quindi basta guardarsi allo specchio e far finta di ridere, quindi far immaginare proprio qualche scena magari divertente e parte una risata spontanea. In famiglia, se ci sono dei bambini, come sappiamo bene, i bambini ridono spontaneamente, ridono fino a 100 volte al giorno, ascoltiamoli e uniamoci al coro, ecco. Per cui questi sono due primi accorgimenti, proprio sforzandosi di ridere, quindi il video che vi ho preparato va un po' in quella direzione, è un po' la mia piccola sorpresa e regalo di Pasqua, in modo che tutti anche guardandolo si uniscono a questa coralità di risate. C'è ad esempio un'altra esercizio. Io sto già ridendo, posso dire questo, che io quando ti sento ridere mi viene da ridere. Esatto, ecco, per cui spero che anche gli ascoltatori, visto che Radio 24 fa questi magnifici podcast, domani, dopodomani, appena sarà poi pronto il video dopo Pasqua, potranno riascoltarlo e approfittare di queste schegge di risate tra una battuta e l'altra per farla partire a loro volta. Come hai detto tu, Carlo, è contagiosissima e quindi è inevitabile, io inizio a ridere e voi, anche se non ci vediamo, anche se siamo distanti 20-30 km in questo momento, è come se fossimo nella stessa stanza e io cerco di riprodurre la stessa sensazione anche con tutti gli ascoltatori. Altra risata che si può fare è la risata della stretta di mano, no? Perché normalmente è difficile approcciarsi in una maniera un po' più giocosa alla stretta di mano che noi vediamo molto formale, e se siamo da soli, mano destra che abbraccia la mano sinistra. E quindi di nuovo ci stringiamo la mano, è un primo contatto da soli. E il secondo, meraviglioso, è che in questo momento una delle cose che ci manca di più è abbracciarci. Ecco, nello yoga della risata abbiamo la risata dell'autoabbraccio, per cui semplicemente ci abbracciamo da soli e ridiamo. Davide, ci lasciamo su questi consigli e su questa tua risata che ci mette buon umore. Io devo, come dire, salutarvi tutti, ricordarvi che da questo momento in poi si può fare prosegue con alcune scelte di interviste che abbiamo selezionato per voi degli ultimi mesi e ci salutiamo poi alla fine della puntata insieme. Intanto a tutti voi buona Pasqua, Davide Giansoldati, buona Pasqua ovviamente anche a te. E buona Pasqua anche a voi. Ciao. Si può fare. si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccoci ancora insieme con questo meglio di Si può fare. Abbiamo pensato infatti con Carlo Gabardini di riproporvi alcune delle storie che ci sono maggiormente piaciute durante questa stagione. Andiamo ad ascoltare la prima. Sure to be a change in ways. I met a cheerleader, was a real young breed. All the times I can reminisce. Allora, la questione TikTok, io non ho mai giocato, non ho mai fatto un video da condividere su questa piattaforma, però ne sento molto parlare, soprattutto dai ragazzini, e proprio per questo è un grande tema sul quale bisogna confrontarsi e sul quale ci auguriamo anche l'Unione Europea si confronti e prenda delle decisioni al più presto, chieda chiarimenti ai gestori che, come sappiamo, stanno in Cina. Quindi, insomma, è un mondo molto vasto, è una questione molto ampia, planetaria, sulla quale gli Stati Uniti hanno già preso appunto alcune decisioni, ma noi vorremmo sapere come si sta comportando l'Italia e che cosa sta portando avanti in Europa con Giuseppe Busia, come dicevo. È il segretario generale del Garante dei Dati Personali, buongiorno. Buongiorno, sì, noi l'abbiamo sottoposto ai colleghi di Bruxelles, perché moltissimo del lavoro del Garante per la protezione dei dati personali oggi è fatto in Europa, ed è chiaro che una piattaforma globale deve essere, i problemi legati a una piattaforma globale come TikTok devono essere affrontati a livello europeo, per cui abbiamo posto il problema a livello europeo e si è deciso di formare una task force, come noi avevamo proposto. Sì. Che cos'è una task force? Vuol dire che le autorità si coordinano fra loro, alcune hanno già avviato delle iniziative, noi abbiamo chiesto delle informazioni a TikTok perché, come si diceva prima, è una piattaforma che sta esplodendo, è nata in Cina nel 2016 ma adesso ha milioni di persone che la utilizzano, sono soprattutto minori, ci sono episodi di cyberbullismo, di piccole minacce, estorsioni e soprattutto si sono verificati due elementi, uno una falla di sicurezza che si è detto la casa madre abbia corretto, ma noi giustamente e doverosamente vogliamo vederci chiaro, perché sarebbe possibile avere accesso alle credenziali dei video, poterli modificare, poter intervenire su questi, quindi con rischi concreti per i minori che la utilizzano e tutti coloro, anche adulti, che cominciano a utilizzarla sempre di più. Ma i minori che sono, diciamo, autorizzati, sono quelli al di sopra dei 14 anni? Sì, in Italia su questa piattaforma, 14 sì. anni, in Europa da 13 a 16, se i minori hanno meno di 14 anni devono avere, o la piattaforma deve avere per aprire il profilo, il consenso dei genitori. Vogliamo capire se questo è avvenuto, se tutti i profili sono stati aperti adottando queste cautele, che sono a protezione dei minori e che sono a protezione delle persone. Ma un elemento, anche se fossero adulti, se c'è una falla di sicurezza, se io pubblico un video e viene certo. cambiato, viene modificato, mi viene attribuito qualcosa di diverso o io vengo ricattato, ho bisogno online di muovermi in un ambiente sicuro. La protezione dei dati personali serve a garantire sicurezza anche e soprattutto nei servizi digitali. Certo, la sicurezza è per tutti. Ma, prego, ma come mai su questa attenzione particolare su TikTok e invece che su Facebook, su tutte le altre? L'attenzione è anche su Facebook, su Google, sui grandi giganti del web che raccolgono tantissimi dati. È su TikTok, e doverosamente deve essere su TikTok, perché come le altre piattaforme raccoglie tanti dati, forse ha delle falle e in più, non nascondiamocelo, il fatto che sia legata alla Cina, sia nata in Cina, i dati possano confluire in un paese che non ha le stesse garanzie dell'Europa, pone un problema serio di sicurezza, un problema serio sull'utilizzo dei dati, e noi sappiamo che, senza alcun pregiudizio perché il mercato è libero, però le imprese legate alla Cina, il governo cinese ha la possibilità di realizzare degli interventi più pressanti di quelli che sono normalmente consentiti nelle democrazie occidentali. Sì, tra l'altro abbiamo anche lo storico delle democrazie occidentali, immagino Carlo volessi dire questo, no? Che anche da noi ci sono già stati dei seri problemi sulla protezione dei dati, quindi forti dell'esperienza. Direi più da noi, nel senso che su Facebook e sugli altri, tutto l'affare Cambridge Analytica è tutto esattamente su social che invece sono americani o sono europei, quindi purtroppo non europei, e il grosso sono americani, e anche gli americani danno grossi problemi, hanno Google, Facebook, i grandi giganti del web che sono americani e stanno diventando un po' cinesi, hanno tantissime informazioni, un potere straordinario sulle persone che lasciano i loro dati, un modo di controllare questo potere sulle persone e sugli stati, perché contano tanto economicamente, è quello della protezione dei dati, che non vuole bloccare l'innovazione, che non vuole bloccare i servizi bellissimi e comodissimi che ci offrono, ma vuole far sì che il controllo rimanga in capo alle persone e che le persone non siano schiacciate da questo strapotere, sia esso americano, sia esso cinese, sia esso europeo, le persone e la libertà prima di tutto. Esula un po' da questo discorso, però il tema è sempre questo del riconoscimento facciale, adesso non l'affrontiamo, però anche lì è una discussione che in Europa si sta portando avanti proprio per, no, tutela e fatto che la mia immagine, quello che faccio, resti di mia proprietà e non sia di tutti condiviso con qualcuno che non so, magari, anzi ancora certo, peggio. Certo, il riconoscimento facciale per esempio nei luoghi pubblici, si è discusso di una moratoria eventuale che adesso non è stata decisa, ma se io mi muovo per strada e qualcuno mi segue, anche se non sa chi sono, mi segue nei miei movimenti, legge i miei atteggiamenti, vede chi incontro e registra questi comportamenti, questo mi limita la mia libertà, io mi sento pedinato tecnicamente, tecnologicamente pedinato, e questo crea una limitazione di libertà nelle persone. In alcuni stati, la Cina, questi sistemi vengono usati per un controllo sociale molto pervasivo, per dare il voto, se sei un buon cittadino butti la carta per terra, attraversi col rosso eccetera. Dobbiamo avere trasparenza su questi dati, perché non voglio pagare il fatto magari di essermi distratto, di avere un momento essere passato col rosso e quando vado in banca mi trovo bloccato il prestito perché mi dicono no, guarda, tu hai un rating più basso e non te lo do. Allora, è tutto un altro fronte, ma è sempre tutela di dati, la questione invece della scuola che nella provincia autonoma di Trento aveva, no, il servizio scolastico della provincia aveva inviato una mail a 16 famiglie di bambini iscritti a quell'anno scolastico che sarebbe iniziato di lì a poco, per comunicare che non risultavano in regola con gli obblighi vaccinali. Questa cosa non si può fare, avete spiegato, giusto? Perché non si può fare? Diciamo, si può naturalmente comunicare alle famiglie, non si può fare come ha fatto erroneamente, probabilmente con uno sbaglio, la provincia di Trento, mettere in chiaro gli indirizzi di tutti i destinatari, di tutti i genitori della mail, così dicendo al genitore dell'uno che il compagno di banco o la persona della scuola vicina aveva un problema di salute. Io devo comunicarlo al singolo e posso usare banalmente, ci vuole poco, invece di inserirlo in copia visibile, lo inserisco in copia nascosta, e questo fa sì che la comunicazione arrivi, ma io non dia una notizia che non devo dare a tutti i destinatari. Credo che questa notizia abbia spaventato moltissimo, perché tutti noi sbagliamo spessissimo, vogliamo metterli in realtà in copia nascosta, poi ci sbagliamo, li mettiamo nell'alto, poi rispondiamo a una mail lasciando in copia il pezzo della mail precedente dove si sta parlando di quel collega, quindi secondo me anche per quello quella notizia ha un po' preoccupato. Ma forse è utile che ci sia un po' di preoccupazione, noi non abbiamo sanzionato la scuola, abbiamo solo ammoniti, abbiamo detto state attenti, ed è no, utile. No, ma è tutto corretto, molto corretto. Stiamo attenti perché certo, si possono fare dei danni quando si danno dati sulla salute, o anche creare dei fastidi, è una questione di buona educazione digitale, possiamo dire. Dare anche solo l'indirizzo email a chi non deve averlo, magari con un rispondi tutto aumenta il fastidio delle mail non volute, è un qualcosa che possiamo evitare con un briciolo di attenzione. Guardi, condivido in pieno, anche perché una cosa che mi infastidisce moltissimo sono per esempio i gruppi di WhatsApp, quando poi ti ritrovi insieme a un sacco di persone che non conosci, che improvvisamente hanno il tuo numero di telefono. Esatto. Ma le volevo chiedere un'ultima cosa, visto che abbiamo letto che sulla questione del coronavirus esiste la possibilità, o perlomeno non è stata esclusa la possibilità della geolocalizzazione dei cellulari per tentare di ricostruire la catena dei contagi, avverrà questa cosa, che cosa significa, si può fare, perché insomma è ovvio che da un lato c'è l'emergenza e quindi tutti diciamo vabbè c'è l'emergenza, dall'altro ci sembra una grossissima invasione della privacy, cioè stare a controllare tutti i movimenti di chiunque di noi. Guardi, di fronte a un'emergenza in cui si limita la libertà delle persone dicendo non mi volete di caso, di fronte a poteri che possono arrivare all'espropriazione, si ha anche la possibilità con ragionevolezza di compiere alcune analisi sul traffico, ad esempio sugli spostamenti delle persone che ad esempio siano interessate da un contagio o nelle zone rosse. La protezione dei dati continua a essere, deve essere rispettata. Dobbiamo affidarci alle autorità, protezione civile, autorità nazionale, che stanno facendo il loro mestiere e che possono in certi casi avere l'esigenza di avere maggiori dati. Ci hanno chiesto un parere e noi abbiamo detto potete farlo in termini di ragionevolezza laddove serva in modo particolare. Se io posso privare della libertà delle persone e dire non ti muovere di casa, posso in certi casi anche dire ti localizzo. Questo deve avvenire nei limiti dei principi e con trasparenza. La protezione dei dati personali serve a garantire questo. Giuseppe Busia, la ringraziamo moltissimo anche per questo ultimo chiarimento. Segretario generale del Garante dei Dati Personali, buon proseguimento, grazie, buona giornata, buon lavoro. Adesso noi abbiamo GR24, vero Carlo? Poi sì. Torniamo subito dopo e a prestissimo, che dire? A dopo. Si può fare. Abituati ad essere giudicati che a giudicare, gli studenti italiani si dimostrano indulgenti nei confronti dei loro docenti, alle prese con la didattica a distanza. 9 ragazzi su 10 promuovono l'operato dei loro prof. Circa 1 su 3 ha rivalutato in positivo l'idea che aveva del proprio insegnante. Lo dice un sondaggio di scuola.net realizzato per Radio 24, dal quale emerge che comincia a serpeggiare la nostalgia. Spero di rivedervi presto, scrive un ragazzo. Grazie per averci messo al primo posto, aggiunge un altro. Sono Maria Piera Ceci e vi aspetto domani dalle 10 con uno speciale di Verso il futuro e oltre, naturalmente su Radio 24. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ben ritrovati a Si può fare, io sono Laura Bettini insieme a Carlo Gabardini in questa puntata particolare registrata, quindi non scriveteci sms o whatsapp, abbiamo deciso di riproporvi qualche storia di quelle che ci hanno maggiormente colpito in questa stagione. Il meglio di Si può fare riparte quindi da qui. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Questo è un grande programma che dà domande e risposte. Allora, a proposito di risposte a un vecchio modo di dire donne al volante, pericolo costante, beh, sono arrivate questa settimana da delle statistiche molto precise. Le donne sono invece di essere un pericolo il miglior affare per le compagnie di assicurazione. Sono percentualmente meno coinvolte in incidenti, hanno spesso meno torto, diciamo, e meriterebbero tariffe assicurative quindi assai più vantaggiose. Purtroppo per loro sono più spesso vittime di incidenti quando sono passeggere di un uomo. Quindi, e soprattutto di insulti generici come il luogo comune che avevi citato prima tu, che è assolutamente da sfatare. Io ne sono felicissimo, forse io anche perché posso non dire. Ho tu non hai la patente, non io ho la sono patente. Donne, siamo perfettamente quindi, autorizzati. Secondo me sono molto meglio le donne, assolutamente. Ne vogliamo parlare di questo, ma di molti altri stereotipi, diciamo, sulle donne con Alessandra Neri. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Alessandra, pilota Gran Turismo, conduttrice televisiva per Sky, ospite talent di Race Anatomy in particolare, ma insomma tu sei donna, sei pilota o pilotessa, cosa ti piace di più? Pilota. Infatti a me fa orrore la pilotessa, ma vabbè, l'ho detto. Ah sì, però è giusto, nel senso che pilota è una pilota o un pilota. È già femminile. Se no è come dire una cantantessa. Cioè, no. Ma c'è chi lo dice. Non si può c'è chi sentire, lo dice. Esatto. Yeah. Allora, tu fai tra l'altro corsi di guida, quindi insomma questo orribile modo di dire, no, delle donne al volante pericolo, insomma in realtà lo sfati completamente, direi. Sì, esatto, diciamo proprio che sono l'opposto rispetto a tutto quello che di solito si è sempre detto. Ma come sono le facce? Adesso, ecco. Come sono le facce dei tuoi allievi quando ti vedono arrivare, quando vedono arrivare una donna? Perché quello mi piacerebbe. Onesta. All'inizio sicuramente un po' sul chi va là, perché non è una cosa abituale. Noi nella scuola comunque su quasi 90 istruttori siamo solo 3 ragazze, quindi è ovvio che anche nel singolo corso magari ce n'è solo una per volta, e quindi siamo le mosche bianche. Sicuramente certo, non è così usuale, quindi si c'è stupore inizialmente, però poi ci facciamo cioè si ricredono, perché comunque vedono che insegniamo tanto quanto gli altri, ecco, anzi forse siamo più dediti all'insegnamento, non lo so. Beh sì, in effetti ormai le insegnanti, cioè sono più insegnanti donne che uomini, specialmente, esatto, no, nei primi cicli scolastici, quindi forse c'è più pazienza, non lo so, c'è sì, più... Sicuramente, sicuramente. Tu insegni anche nei paesi arabi, esatto, dove tra l'altro appunto le donne guidano poco e gli uomini non sono abituati a prendere lezioni dalle donne. Sì, è stato veramente un grandissimo traguardo sia per il mondo intero, ma anche per noi, nel senso di istruttrici femminili. Proprio a dicembre abbiamo fatto il primo evento in Arabia Saudita, dove le donne possono guidare da poco più di un anno. Prima non era consentito e ancora oggi comunque sono molto poche, perché allo stesso tempo possono guidare ma non hanno ben regolamentato come dargli la patente, perché ci sono al momento solo istruttori uomini, e sai, lì comunque questione di religione, non possono stare troppo vicini. Ah, ecco. giusto. Esatto. Quindi in qualche modo bisognerà arrivare alle istruttrici donne. Esatto, per forza, esatto, di cose. Esatto. Questo mi sembra anche interessante. Ma senti, a parte la domanda che vogliamo ovviamente farti, ovvero guidano meglio gli uomini o le donne, l'altra cosa che mi incuriosisce è se sei pagata tanto quanto gli uomini o se anche lì c'è il cosiddetto gender, come si chiama? Gap, sì, mi sembra. Gap sicuramente. Insomma, sì, il fatto che le pay donne gap spesso vengono pagate molto meno degli uomini. No, devo essere onesta, la nostra azienda da quel punto di vista lì non fa differenze. Ci sono degli scaglioni in base alla tua esperienza, ma certo, se tu arrivi da, che hai già esperienza, un novellino, sei uguale trattato come i ragazzi, quindi da quel punto di vista lì non ci sono differenze, meno male. Ottimo. Meno e male. Invece sulla guida, illuminaci su chi guida meglio, se si può dire poi. Sulla guida praticamente diciamo che il risultato, la grande differenza si raggiunge sempre molto di più con le donne, ma perché partono anche molto più timorose, ecco. Forse proprio per questo detto, questa usanza, partono col dire io tanto non ce la faccio, io tanto non sono capace, ma perché magari non credono in loro stesse. E invece poi durante la giornata gli fai vedere che tante volte i risultati sono migliori rispetto a quelli degli uomini, ma non semplicemente per capacità, ma perché ascoltano. C'è poco da fare, gli uomini magari arrivano un po' più pieni di sé, pensando tanto io questa cosa la so già fare. Invece comunque ci vuole concentrazione, ci vuole bisogna ascoltare le nostre indicazioni, e da quel punto di vista lì la donna ti segue un po' di più. Quindi non si parla solo proprio di capacità innate, si tratta anche proprio di uno come si approccia all'insegnamento e all'apprendimento soprattutto. Certo. Va bene, allora grazie mille Alessandra, buon proseguimento. Abbiamo capito che le donne sono più forse disponibili ad imparare, gli uomini poi alla fine si arrendono all'idea di avere un'istruttrice donna, meglio così, perché poi alla fine appunto solo l'esperienza, solo la pratica può appianare le cose, no? Come succede sempre. E questa era una delle interviste che abbiamo fatto nel corso dei mesi appena passati. Ora andiamo a sentire le informazioni sulla viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. patente di qualità, di competenze, di fiducia che adesso esiste per colf e badanti, perché è un settore largamente, come sappiamo, irregolare, e ho visto addirittura dei dati che, se riesco a ritrovare, sono 800.000 regolari, 1.200.000 di irregolari in questo settore. E per ricordarlo, è sempre un numero gigantesco, tutto ciò, il mancato gettito per le casse dello Stato è oltre i 3 miliardi di euro. E oltre al mancato, no, è incredibile. E oltre a quello c'è anche che a volte si tratta di persone non competenti, quindi che non riescono a svolgere correttamente il loro lavoro con anziani e bambini, magari perché gli manca qualche informazione, che adesso nel fare questa patente, diciamo così, di qualità avranno. Ne parliamo con Alessandro Lupi, vicepresidente di Assin.Colf, che vorrebbe dire Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, la patente, diciamo, come si ottiene, che cosa garantisce e perché dovremmo richiederla, anche perché poi è fondamentale, no? Cerco personale che sia dotato di questo patentino. Assolutamente. Il grande paradosso è che affidiamo tutti i giorni le cose più preziose che abbiamo in famiglia, gli anziani, i bambini e anche la nostra casa, la nostra casa, che per gli italiani sappiamo cosa significa, a persone poco qualificate. Questo è un po', come dire, il punto di partenza di un percorso che ha portato alla promozione presso UNI, l'ente di normazione italiana, di questa norma tecnica sulla figura dell'assistente familiare. Ma le volevo chiedere una cosa: sono veramente poco preparate, perché poi spesso si sente invece di colf, badanti, che sono incredibili, magari irregolari, non sto dicendo, e quindi in realtà avrebbero difficoltà a prendere una cosiddetta patente, però volevo sapere da lei se realmente ci sono molti casi di badanti o colf impreparate o che fanno errori. Chiaramente la situazione non è mai omogenea, cioè ci sono situazioni a macchia di leopardo, ci sono lavoratori estremamente bravi e preparati e lavoratori, diciamo, anche un pochino improvvisati. Certo. Ricordiamoci che il comparto del lavoro domestico è anche un grandissimo vettore di inclusione, come dire, sociale, a cui accedono al mercato del lavoro domestico persone che magari sono alla prima esperienza lavorativa, oppure magari facevano tutt'altro i lavori in paesi fuori dall'Unione Europea e vengono e sono arrivati in Italia e svolgono questa attività per necessità. Certo. Quindi che il comparto abbia, come dire, bisogno di crescere dal punto di vista delle conoscenze, delle competenze, credo che sia sicuro, sia certo, ecco. Questa patente, diciamo, la certificazione di qualità può essere un contributo importante, con un'uniformità su tutto il territorio nazionale, per, diciamo, fissare uno standard di quelle che sono le conoscenze e le competenze che un lavoratore domestico deve possedere. Mm. Ecco. Ma quindi si deve fare questo se si vuole essere regolarmente? No, assolutamente, è un'opportunità. La normazione tecnica è sempre su base volontaria, assolutamente. Ma il progetto è di farla diventare non volontaria, immagino, o no? Il progetto è quello di consentire ai lavoratori che vogliono di avere questo riconoscimento formale, questa certificazione di qualità, che hanno delle conoscenze e delle competenze specifiche certificate da un organo terzo di certificazione. Questo va a vantaggio sicuramente dei lavoratori, perché possono avere magari una spendibilità diversa su questo mercato, e va a vantaggio anche delle famiglie, perché chiaramente sono consapevoli del fatto che stanno inserendo nella loro abitazione, stanno affidando i propri cari a persone che hanno un background di competenze e di conoscenze di un certo tipo. Che tipo di appunto competenze si acquisiscono? Cioè, penso più sanitarie facciamo un esempio sulla figura della badante. La norma tecnica prevede, ve ne dico qualcuna, sono tante, certo, le conoscenze, ad esempio le norme igieniche per prevenire il rischio di infezioni e contaminazioni nell'assistito e nel lavoratore, oppure la conoscenza dei principi basilari di trasmissione e prevenzione delle principali malattie infettive, oppure i movimenti corretti da eseguire nella vestizione e svestizione, o le manovre corrette nella movimentazione dell'anziano, incluso il corretto utilizzo degli ausili. Quindi ci sono tutta una serie di, diciamo, di conoscenze, di competenze legate alle varie figure professionali che il lavoratore, se vuole avere questa certificazione di qualità, deve conoscere. E come funziona? Come si fa a certificarsi? Ci sono alcuni prerequisiti molto semplici, che sono una conoscenza di base della nostra lingua, il fatto di aver partecipato a un corso di formazione con una certa durata, diciamo una formazione che dura almeno 64 ore per quanto riguarda le badanti, quindi non una cosa, diciamo, esagerata, e poi avere una breve esperienza lavorativa nel settore della collaborazione familiare, cioè aver fatto questo lavoro per almeno 12 mesi in un triennio. Ecco, avevo letto questa terza anch'io cosa. Anch'io non l'avevo capita tanto. E un po' mi faceva strano, perché mi sembra come dire che per andare all'università di fisica bisogna aver già lavorato come fisico. No? La formazione teorico e pratica deve essere sempre accompagnata da una formazione sul campo. È un po' la logica è un po' come quella del tirocinio curriculare, per capirci. Cioè, nel momento in cui faccio la formazione, studio, devo anche mettere in pratica quello che sto facendo e quello che sto imparando. No, questo è molto chiaro, però questo prevede che una famiglia per 12 mesi si pigli una badante senza la vostra certificazione. Assolutamente. E quindi magari però è già qualcuno che ha già una badante, no? E vorrebbe certificare la fare propria. L'upgrade. Ma se consideriamo il punto di partenza, in cui oggi nessuno ha, come dire, una certificazione delle competenze acquisite, e comunque 2 milioni di persone fanno questo di lavoro, lei dice, esatto, giustamente va bene, aiutiamole a farla aiutiamole a farlo meglio, certo, anche perché dei 2 milioni molti sono persone che si sono trovate a farlo, esatto, ma non lo facevano. Allora, già noi l'accogliamo questa mozione, se ci promette che una volta che avrete fatto 2 milioni di certificazioni togliete questa norma per i successivi 2 milioni, visto che stiamo invecchiando, saremo un paese dove facciamo tutti o i pensionati o le badanti, molto probabilmente. Non c'è dubbio. Meno quelli che hanno già compiuto 100 anni, che quelli invece faranno un bellissimo lavoro, che andare alla Hawaii a comprare a le sigarette per tutti quelli che non ne hanno ancora 100. Va bene. Ci arriverà. Beh, sì, soprattutto che prenderà armi e bagagli per andare alle Hawaii a quell'età. Certo. Siamo tutti felici. Senta, mi sembra molto bello comunque, questo aiuterà anche a uscire dal nero molte persone magari, perché comunque anche quello è un aspetto significativo, importante e pesante per le casse dello Stato, quindi a proposito. Assolutamente, una delle finalità che si è posta l'ente bilaterale nel promuovere l'Ebincourse, nel promuovere questo tipo di percorso, è anche quello di, come dire, trovare degli strumenti per favorire l'emersione dal lavoro, diciamo, irregolare, anche se devo dire e qui mi metto il cappello dell'associazione datoriale, che la leva principale per poter far emergere questa grossissima quantità, parliamo del 60% del mercato di irregolari, non può anche essere che la leva fiscale, cioè sì. dobbiamo mettere in condizione le famiglie di rendere più conveniente il lavoro in chiaro che il lavoro irregolare. Verissimo. Quindi la possibilità di scaricarlo. Assolutamente, una deducibilità fiscale dei costi, delle retribuzioni erogate, magari partendo dai livelli dell'assistenza, la persona, insomma, ci possono essere modulate in tanti modi. Abbiamo peraltro dei precedenti molto interessanti, voi pensate a quello che ha fatto la Francia alla fine degli anni 80, primi anni 90, attraverso la leva fiscale, nel giro di un arco temporale brevissimo, hanno fatto emergere quasi il 30% del mercato che in quel momento era irregolare. E perché da noi non si fa? Provi un po' a indovinare. Sempre per la stessa ragione, perché sono oneri che pesano sul bilancio dello Stato, sulle casse dello Stato, e quindi, come dire, certo, bisogna trovare le risorse e il momento giusto per poter provare, chiaro, a fare questo genere di ragionamento. Ricordiamo allo Stato che se risolvessero il problema poi entrano 3 miliardi in più, quindi bravissimo, ci sta anche iniziare a spendere, visto che è lo Stato, però... e non dovrebbe essere un'associazione a fine di lucro. Le giro solamente un consiglio di un nostro ascoltatore che dice specialmente le conoscenze psicologiche della vecchiaia, perché è la più difficile e importante. Mi sembra un'osservazione estremamente pertinente. E infatti tra le conoscenze della badante c'è anche la conoscenza degli elementi di base di psicologia dell'anziano e della persona con diciamo disabilità e delle principali tecniche di relazione e comunicazione. Perfetto, sembrava preparato, non so se questo invece ascoltatore no, che ha scritto in realtà è suo cugino, però ne siamo molto contenti. Grazie molto. Grazie mille. Grazie Alessandro Luppi. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Prossimo tema che affrontiamo è quello dei 10 anni. 10 anni sono già passati da quando è stata istituita l'agenzia per i beni confiscati alle mafie. Non mi sembrava tanto, Carlo, ma invece vedi, siamo già arrivati a 10. E come vanno le cose? Beh, vanno diciamo bene, perché esiste, ma si può sicuramente fare di più in alcuni passaggi che Libera conosce molto bene. Davide Pati è vicepresidente di Libera. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Buongiorno. Allora, volendo fare un piccolo bilancio di questi 10 anni, appunto, bene perché c'è, bene perché tante cose sono state fatte, qualche passaggio ancora da... Soprattutto lentezze, direi. Che dice? Sì, sicuramente è bene raccontare le positività di questi anni, l'impegno collettivo per restituire alla collettività i beni immobili, aziendali, immobili sottratti alle mafie per fatti di corruzione e di criminalità economica. E quindi si può fare, si possono riutilizzare i beni confiscati con un impegno collettivo. Ma ancora tanta strada c'è da fare, perché l'azione della magistratura e delle forze di polizia hanno restituito alla magistratura e alle istituzioni tanti beni in tutta Italia. Ormai non c'è regione che non abbia beni sequestrati. Eh sì, perché ormai dalla Val d'Aosta giù fino appunto alla Sicilia, ogni regione ha i suoi beni da valorizzare anche poi una volta. Mi chiedo se è una buona notizia, ma adesso ne parliamo in un altro momento. Però ha fatto bene a sottolinearlo. È giusto. Che il vicepresidente Pati sa bene che non c'è regione che non abbia i suoi beni. Sì, una presa di coscienza, di una pervasività di presenza di queste organizzazioni, ma anche di una coscienza di un impegno della società civile organizzata, delle istituzioni, per lavorare insieme in materia di prevenzione e di repressione. E i beni confiscati hanno costituito davvero un luogo dove si fa memoria delle vittime innocenti delle mafie, ma anche si dà opportunità di lavoro e di promozione sociale. E ci si riappropria anche del territorio, che mi sembra fondamentale, nel senso che io penso che ci sia anche un fortissimo valore simbolico. È uno anche dei motivi per cui noi di Si può fare vi stiamo spesso col fiato sul collo, perché vogliamo che si faccia subito, perché nel momento in cui un bene viene confiscato alla mafia è un ottimo momento, ma soprattutto il grande momento è quando viene restituito alla collettività e viene usato proprio quotidianamente. Uno dice: qui un tempo facevano delle cose brutte e terribili, adesso vengono i bambini a giocarci. E quindi la domanda che ci facciamo è: come mai ci vuole così tanto tempo per il passaggio da quando la magistratura decide che quel bene non è più della mafia al momento in cui torna effettivamente alla collettività? Eh sì, ci sono ancora dei nodi, delle criticità da risolvere. Prima fra tutte, appunto, l'Agenzia Nazionale, che opera ormai da 10 anni, ma solo recentemente è stato deliberato l'aumento di organico da 30 a 200 unità, ma solo nell'ultima legge di bilancio sono state inserite alcune procedure semplificate perché questo aumento potesse concretizzarsi. Un bando pubblico per 70 professionalità con varie qualifiche ancora è fermo, non è stato ancora avviato, e quindi è importante che l'agenzia funzioni e possa adempiere al ruolo che la legge le ha attribuito, che è quello di ausilio all'autorità giudiziaria durante la prima fase importantissima del sequestro, e poi anche di programmazione, di accompagnamento delle amministrazioni regionali, locali e poi di tutte quelle realtà sociali. E oggi sono 850, le abbiamo censite dal nostro osservatorio, in tutta Italia, che gestiscono concretamente i beni confiscati. Certo, e vanno gestiti bene, diciamo, perché sennò diamo un segnale, no, molto negativo. Penso anche alle aziende sequestrate, che se mal gestite poi falliscono, i lavoratori perdono il lavoro, quindi ci sono molti passaggi che vanno rispettati e che, sui quali non bisogna fallire, direi. No, assolutamente, è una scommessa che va vinta. Questa, l'intuizione di Pio La Torre dell'82, con l'aggressione al patrimonio delle mafie, 25 anni fa la raccolta di 1 milione di firme per l'uso pubblico e sociale di questi beni, e oggi questi beni restituiti alla collettività rappresentano un esempio in Europa e nel mondo. La direttiva europea invita gli Stati membri a fare, così come ha fatto l'Italia anche negli altri Stati dell'Unione Europea, e penso anche a pochi giorni fa, prima di Natale, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, la conferenza di Stati Parti ha invitato ciascun paese a introdurre anche l'utilizzo pubblico e sociale di questi beni. Una criminalità sempre più transnazionale, ma anche un impegno per i diritti e per la giustizia sociale che deve interessare tutti i paesi. È ovvio che, come ci diceva lei, le leggi ci sono, bisogna metterle a terra, bisogno di tante altre cose, ma lei come vorrebbe praticamente agire in questo momento, se potesse, avesse la leva? Da dove partiamo? Libera svolge un ruolo, una rete di associazioni in tutta Italia, svolge un ruolo di informazione e di formazione su questi temi. È importante che questa informazione aumenti sempre di più, che tutti siamo in grado di conoscere quali sono i beni sequestrati e confiscati nel proprio territorio. E qui anche la legge è intervenuta, anche l'Agenzia Nazionale si è dotata di un portale per la trasparenza di queste informazioni. È importante quindi una circolarità di questi dati, e poi accompagnamento alla progettualità, sia da parte delle associazioni, delle cooperative che si impegnano sui territori, ma anche un accompagnamento alle amministrazioni locali. Quindi il ruolo delle prefetture, il ruolo dell'Agenzia Nazionale deve essere riconosciuto e valorizzato da parte del Governo e del Parlamento, perché ogni bene possa essere restituito alla collettività. Non possiamo permetterci beni che stiano fermi per tanti anni per lentezze e procedure amministrative che portano poi ad avere sfiducia. Ma qual è secondo lei il più bel progetto di bene confiscato alla mafia restituito alla collettività, così, se dovessi, quello che si ricorda di più? Ma ce ne sono tanti, dalle terre restituite e coltivate ora col metodo biologico in tutta Italia, al ruolo della Chiesa italiana con le Caritas, con le parrocchie, a quelle esperienze degli scout, penso in Sicilia, che negli ultimi mesi hanno avuto anche degli attentati, sì. Ma penso anche a tutto il lavoro che si fa in provincia di Caserta per il reinserimento delle persone con disagio psichico e la battaglia per difendere quei budget di salute. Ma penso a ieri, al quartiere della Romanina a Roma, una villa confiscata di Casa Monica, oggi finalmente restituito a quelle famiglie con bambini autistici, e quindi un servizio alla collettività, alle persone fragili, una restituzione di dignità e diritti della gente, della persona. Io ho visto che questa legge che abbiamo noi ora interessa anche all'estero, mi diceva, è così? Sì, una direttiva europea della Commissione del Parlamento Europeo del 2014, quindi già 6 anni fa, grazie all'esperienza delle istituzioni del mondo dell'associazionismo italiano, e quindi ha invitato gli Stati membri, e quindi già alcune legislazioni stanno andando in quella direzione e abbiamo già i primi beni riutilizzati socialmente in alcuni paesi, ma penso anche al lavoro che fa la magistratura italiana in collegamento con Europol e con gli altri organismi di cooperazione di polizia, che sequestra e confisca i beni anche in altri paesi. E poi le Nazioni Unite. Certo, perché poi ci siete un sequestro altrove. Sì, sono i 20 anni quest'anno della Convenzione ONU sulla criminalità organizzata e proprio un riconoscimento è arrivato proprio prima di Natale con l'invito anche a tutti i paesi delle Nazioni Unite per introdurre meccanismi di riutilizzo, di restituzione ai cittadini dei beni confiscati. A maggior ragione, insomma, non facciamo brutta figura, visto che se decidiamo da una parte l'esempio, dall'altra dobbiamo proseguire bene. Grazie Davide Pati, vicepresidente di Libera, buon lavoro, buon proseguimento. Grazie, grazie a voi, buona domenica. Grazie mille, buona domenica, buon lavoro. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E andiamo al nostro prossimo tema, un tema che tante volte abbiamo toccato in altri ambiti, ora arriviamo a quello sportivo, quello del hate speech, del discorso d'odio che viene fatto ormai purtroppo, no Carlo, ovunque, in qualunque momento, sì. Lo vediamo anche noi. Viene esercitato, direi. Sì, come un'attività quotidiana da molte persone, viene esercitato spessissimo e con molta violenza verbale nello sport, basta vedere i commenti che ci sono in fondo alle pagine, no, degli articoli sportivi su internet, ad esempio. Ebbene, un progetto specifico vuole incidere su questa cattiva abitudine. Il progetto si chiama Odiare non è uno sport e in collegamento con noi c'è Sara Fornasir, che è una dei coordinatori di questo progetto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, situazione, voi avete fatto addirittura delle statistiche, no? Sì, diciamo. Un'analisi della situazione. Una delle fasi del progetto, insomma, il progetto prevede alcune fasi complementari. Una di queste fasi è tuttora in corso, è il monitoraggio di questi discorsi d'odio che circolano nei commenti, diciamo, ad alcune delle principali testate giornalistiche che si occupano di sport. Quindi questa ricerca è stata affidata al centro CODER collegato all'Università di Torino e quello che ne è emerso in effetti è abbastanza sconfortante. Eh sì, perché un linguaggio volgare nel 13,5% dei casi, aggressività 73%, poi ci sono addirittura minacce vere e proprie, forme di discriminazione, insomma c'è un po' di tutto. I livelli sono diversi, sì, si passa dal commento, diciamo, non proprio volgare fino alla parolaccia vera e propria, all'insulto e via dicendo, insomma sì, diciamo che quello che emerge è che solo un post su 4 su Facebook, per esempio, non contiene discorsi d'odio. Ma lo scopo di questa analisi qual è? Ma sostanzialmente, o di questa campagna? Come vi dicevo, il progetto appunto è composto da una serie di fasi complementari. E quello che si vuole è, diciamo, avere un quadro abbastanza aggiornato della situazione per poter in qualche maniera contrastare il diffondersi di questi discorsi d'odio e l'escalation che spesso si collega, no, alle chat. E, è in corso infatti l'elaborazione di un chatbot da parte di Informatici Senza Frontiere, che collaboreranno strettamente con il team di SA, School of Management dell'Università di Torino, e i quali elaboreranno a loro volta un albero delle risposte collegato a questo chatbot. E, per semplificarvi, il chatbot è una sorta di intelligenza artificiale che simula una conversazione umana. Questo chatbot viene infilato nelle chat sostanzialmente e, individuato il discorso d'odio, è in grado di attivare delle risposte che disincentivano la sua prosecuzione, ecco. Certo, ma forse se dico ce una manda, cosa magari fa comodo anche esatto, a noi poi. No, esatto, nel senso che ci sono ambiti diversi, forse dico una cosa sbagliata o forse impopolare, ma sì, non era un po' prevedibile, nel senso che nel momento in cui si parla di sport, in Italia per gran parte si parla di calcio o comunque sì, anche infatti, di altri, ed è agonismo, no, quello che mi chiedo è nel senso che se il bot conta anche tutti i Juve merda e Inter merda, è abbastanza evidente che di parolacce ce ne saranno tante. Personalmente credo che siano meno gravi di altre, nel senso, nel momento del tifo, nel momento agonistico, che vengano fuori delle espressioni anche forti e colorite, è un conto. Penso che sia molto diverso quando qualcuno, e lo vediamo su tutti i post di Facebook, quando qualcuno invece parla, che ne so, della Segre piuttosto che del di altri, cioè, problemi in un infantili ragionato, si esatto, lì è molto incomprensibile come mai ci siano dei professionisti dell'odio. Invece in un momento, però glielo chiedevo perché forse sto sbagliando io, ma nel senso, questo forse si capirà, diciamo che il progetto si focalizza su un ambito specifico che è come dire l'hate speech di stampo razziale. Questo è stato un'esigenza, diciamo, decisa ad avvio del progetto, in quanto una delle fasi che lo caratterizzano è la formazione presso scuole e gruppi sportivi, e questa esigenza è nata proprio da un bisogno segnalato da queste realtà. E quindi, diciamo, quello che si vuole fare è contrastare intanto un discorso di tipo razziale, in quanto i ragazzi giovanissimi fanno un uso dei social spesso improprio, che da, diciamo, strumento di svago, di, che ne so, di socializzazione e comunicazione, diventa strumento di discriminazione, ahimè. Sì, non c'entra lo sport, però. No, però questo si suppone che venga alimentato dal fatto che moltissimi giovani sono sportivi e che frequentano chat collegate ad eventi sportivi in cui il clima generale è questo, sostanzialmente. E che poi non vadano, esatto, a continuare a mutuare, diciamo, all'ambito di vita quotidiano quello che loro percepiscono dal web. Chiarissimo, allora ci farà piacere sapere come proseguirà questo lavoro. Intanto la ringraziamo, Sara. Grazie Fornasir. Grazie a voi, grazie a voi. Odiare non è uno sport, abbiamo la viabilità. Si può fare. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato dell'intermediazione immobiliare in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I got, oh yeah.